Su The Lighthouse sarà la puntata più sappio che ho mai fatto. Ma che cazzo dici? Come Merda, Andrea, non hai idea. fa a essere sapio Lighthouse, scusami? Merda, Andrea, sarà una puntata strasappio. Ma perché, cioè, per i commenti di Roberta? No, per i miei. Non avrai I mai tuoi? sentito una puntata più sapio di questa. Senti, la puntata più sapio che hai fatto è quella sulla fotografia. Questo non può essere più sapio. Questa sarà molto più sapio. È Mi impossibile. dispiace, te lo dico. Sarà una roba. Gli ascoltatori si divideranno in due. Una parte dirà Salla è un rompicazzo, e l'altra parte dirà ma io lo amo, è l'uomo della mia vita. Ho capito. La rimandiamo, io ve lo dico, però vabbè, Ormai niente. sto registrando, Troppo Roberto. tardi. Benvenuti, puntata numero Jacopo 54. 54. Grazie. Me l'hai detto tipo 2 secondi fa, mi sono già scordato. E avete già sentito Jacopo? Forse un pelo di Roberta mentre cominciamo a registrare, magari tagliamo, non si sa. E poi c'è anche Andrea che ha visto il film. Forse. Ciao ragazzi. Ciao. Come forse. Il film di cui parliamo è The Lighthouse e lo guardiamo, ce l'abbiamo guardato, ho costretto le persone a guardarlo perché mi è stato suggerito dal dottor Mister Cattabriga che mi ha detto molto cthuluniano, tuluniano, tuliano e se non ti piace comunque c'è William Dafoe e quindi l'ho guardato. Ed è un film del 2019, tra l'altro candidato a un premio Oscar, mi pare, per la miglior fotografia. Il regista di questo film si chiama Robert Eggers, non lo so, Jacopo prima mi ha bacchettato, che ha fatto solo un altro film, che si chiama The Witch, che io non ho visto, e che invece Jacopo e Andrea so che hanno visto, quindi magari mi diranno se è bello o brutto, cosa assomiglia o non assomiglia. E nel film ci sono solo due attori, William Dafoe e Robert Pattinson, il nostro amico di Twilight, anche detto Bruce Wayne. E questi due attori stanno per 110 minuti circa a parlare tra di loro, ubriacarsi, picchiarsi e fare l'amore. Il film parla di un faro, come si fa a vincere dal titolo. È stato Incredibile. lei che ha detto questa puntata sarà sapio, ma è cominciata malissimo. Esatto. E questi due omaccioni sono come si chiama? Custodi del faro. E c'è un nome in italiano. Oh. Non so se hanno tradotto, sai? E Roberta, dici se c'è un nome in italiano per il guardiano del faro. Guardiamo il fatto, dai. No, è guardiano del faro. Allora, uno dei due è il custode, il superiore, il non so come dire, quell'altro è quello che sgobba. E praticamente il film parla solo di questi due isolati dal resto del mondo. Il motivo per cui sta ridendo Salla è che è vero, e questa è una cosa molto. Diciamo che ho sentito parlare di thriller quando ho letto qualcosa di questo film. In realtà è più un film, diciamo horror, ma non horror tradizionale, è più una roba tipo alla Edgar Allan Poe. Infatti, credo sia tratto da una storia di Edgar Allan Poe non mai Che però non c'entra pubblicata. un cazzo con quella storia, quindi. Vabbè, però comunque il genere è più o meno quello, cioè c'è un po' di suspense, un po' di di cose dette e non dette, di indizi sovrannaturali o non sovrannaturali, e poi, ma non c'è nulla di eccezionale fino alla fine del film in cui... Puntini. Però quello che volevo dire è che se avete letto, se qualcuno di voi ha letto o comunque conosce storie di appunto Lovecraft, Garan Poe e similia, e probabilmente sa già come andrà la trama, nel senso che segue il tipo di impostazione. Infatti chi ha giocato a Lovecraft esco e conosce come deve andare la storia. E basta, niente, ringrazio Briga del suggerimento, la puntata è finita e ci... No. Ciao. Vabbè, io in realtà devo fare una roba super sapio, però la farò dopo di voi, così chi non vuole sentire può chiudere. Mi piace. Va bene, allora cominciamo da Andrea, che abbiamo sentito nell'intro. Salve, mi chiamo dica. Andrea, e ho visto un film. No, ti è piaciuto, non ti è piaciuto, tra l'altro hai visto The Witch... Ci assomiglia un The po'. Witch. No, sì, non lo so, Jacopo, mi serve il tuo supporto per questa domanda. Ci assomiglia nel senso che è un mezzo horror strano, non ci si capisce un cazzo e poi è finito e ti chiedi ma che cazzo ho visto? Esatto, sì, ok. Allora è uguale, è lo stesso film, hanno cambiato il nome. Vabbè, in realtà la trama è abbastanza chiara. Anche i The Witch, ma in ogni caso ti chiedi che cosa ho appena visto. Cioè sì, nel senso è un po' confusa, ma assomiglia un po' appunto a una trama di un Edgar Allan Poe, un Lovecraft, che insomma tu capisci cosa succede, ma in realtà ti lascia comunque il dubbio di che cosa è successo davvero, che cosa vuol dire quello che hai visto. Ah, che poi i personaggi... Aspetta, voi avete visto in italiano o in inglese? In inglese. In inglese. Ma come cazzo parlano? Cioè... Sì, è abbastanza... Almeno The Witch si capiva. Sì, cioè, soprattutto Willem Dafoe sembra un po' marinaresco, non so come dire. No, lui è perfetto, cioè, non potevano scegliere un altro attore per fare... Cioè, lui è perfetto, cazzo. A proposito di perfetto, parliamo un po' del tema omoerotico che c'è in questo film. E come... Uno dei temi di questo film è l'omoerotismo. E di Roberta, cazzo, ci servivi tu? Cioè, questa era la puntata perfetta per te. Non mi dispiace. Questo film è pieno di sottotesti. Tra l'altro ho aperto la pagina Wikipedia per leggere una cosa di questo film. La prima cosa che leggo è... cioè, non c'è neanche bisogno di dirlo perché il film ha ovviamente sottotesti omoerotici. Io... Ah, ok. Non ce l'ho mancato. Vabbè, due tizi isolati per settimane, sì, mesi, quanto passa. Beh, diciamo che se non lo sei ci diventi, cioè se sei isolato, ora io non l'ho visto il film, però penso che in realtà questa riflessione la posso fare, cioè che l'essere umano... sia... Senza aver visto il film, ok. No, che l'essere umano sia intrinsecamente pansessuale e quindi diciamo che l'occasione fa l'uomo ladro. C'è anche da dire che loro per tipo una buona metà del film sono sempre sbronzi, quindi questo... anche questo, però cioè io credo che potenzialmente l'essere umano è attratto sia dall'essere femminile che maschile, cioè è attratto dal bello, è attratto e quindi magari si è più propensi verso l'eterosessualità, però se l'eterosessualità non è possibile si switcha. Il problema di questo film è che in un certo senso parla più della repressione, secondo me, dell'omosessualità, sia per il periodo in cui è diciamo in cui, cioè, dove prende, come si dice? È ambientato a fine dell'Ottocento. Esatto, inizio Novecento fino all'Ottocento. Però leggevo di roba tipo, la scena... Aspetta, non so, posso spoilerarla questa cosa? Vabbè, sì, in realtà è tutto il film, perché tutto il film c'è il protagonista, il Robert Pattinson, che... Twilight. Che si masturba. Che si masturba guardando questa statuetta di una sirena, e poi a un certo punto c'è una visione, vede questa sirena tipo spiaggiata, e a un certo punto tipo vede che è una sirena, cioè arriva alla parte sotto, Prima vede il seno e tocca le tette, poi come vede la parte sotto scappa. Io leggevo su Wikipedia, perché sembra una vagina ingrossata, ma dove devi, cioè... Vabbè, la Wikipedia... scappa dall'eterosessualità, ma che vuol dire? No, tutto il resto del film è letteralmente lui e l'altro tizio e Willem Dafoe che si insultano. Praticamente, cioè, sì, che passano dall'insultarsi al farsi complimenti tipo da un minuto all'altro. Sì, ma è anche tipo ti amo, cioè nel senso è il mio miglior amico, ste cazzate qua. E poi il momento dopo è ti odio, non voglio più sentirti. Vabbè, il monologo quello della mi piace la tua cucina è spettacolare. Esatto, lì c'è forse tutta la omosessualità del film. Ti piace la mia ragosta, lo so che ti piace la mia ragosta. Esatto. Cristo Dio. Effettivamente lì ho dovuto concedere. No, allora volevo capire se è un film che voi considereste, perché non è un film facile. È sì, complicato da guardare. No, mi è piaciuto un sacco. Vabbè, gli attori, vabbè. Lui merita tanto, Willem Dafoe, e in realtà anche Robert Pattinson non mi ha dispiaciuto per niente in questo film. Come? Niente. È un film secondo me ideale per due persone che vivono in quarantena insieme nella stessa casa. In perfetto stile e tema. Serrato una cassa di alcolici. Ah, esatto, meglio. No, come dice Andrea, i loro sono perfetti, loro due. Ogni volta che la telecamera sta per tipo 30 secondi su Willem Dafoe, non riesco a distogliere lo sguardo. È troppo bello. Cioè, vedi che Willem Dafoe è il faro di questo film, in tutti i sensi. Esatto. Vedi che ho ragione. Cosa? Oh, ho ragione. Siamo potenzialmente pansessuali. Non stavo dicendo quello, però sì. William Dafoe è bellissimo. All'inizio mi ha fatto strano il fatto che è stato girato in 35. Ah, dici il formato strano. Esatto, mi ha fatto all'inizio strano, poi io ho pensato che... Il problema non è in realtà 35 mm, comunque dopo ne parliamo, adesso io mi sto... No, mi è piaciuto tantissimo quell'effetto che ha dato al film. C'è da qualcosa in più, secondo me. Anche il fatto che è bianco e nero e come è stato girato così. Allora, bravo Andrea. Io ho una domanda per Salla che forse gli ho già fatto per nostalgia. Sì. Però, no, veramente, Salla, tu che sei esperto... Adesso dopo mi annoio su sta roba. No, tu che sei esperto di filosofia. Di filosofia. Di fotografia. Perché questo film... Ho due domande, allora. Perché è più facile, tra virgolette, vendere un'immagine se è in bianco e nero? Perché ci... attira così tanto la luce quando è in una fotografia in bianco e nero, e perché è più facile rendere le cose reali in bianco e nero? C'è un motivo? Non è, secondo me quello che dici tu è la texture che è più... cioè il contrasto, la texture è più contrastata, non so come dire. È quello l'effetto che ti sembra più reale, probabilmente. Ma perché? Ma c'è un cioè in realtà questo film non è... in bianco e nero, questo film è super complicato da un punto di vista di fotografia ed è anche per quello che a me è piaciuto tantissimo e in realtà io ho riguardato i primi 15-20 minuti di film tipo 7 volte e il resto del film non mi è interessato più perché a me è piaciuto un sacco solo per come è stato girato e tra l'altro c'è tutta una storia, sì, è per quello. Adesso ci sarà tutta una parte sabbia, quindi se non volete ascoltarla skippate alla fine. Allora, questo film è un po' strano per due motivi. Secondo me non è il problema non è che è semplicemente... intanto anche il sonoro devo dire che è abbastanza notevole perché è un sonoro fatto come se fosse un film vecchio. Cioè è registrato come se fosse un film... non so, anche solo un film degli anni 70, un film degli anni 60. Comunque cioè, dici, fatto dopo? È tipo... in ADR? Sì, è come se registrassero alcuni suoni che normalmente non registrano e li enfatizzassero. È, è particolare. E, no, quello che in realtà volevo dire è che non è solo il bianco e nero, ma è anche il formato che è stato usato. Perché è vero che è registrato in 35 mm, ma non è solo quello, è anche il rapporto di forma. Cioè è un diciannovesimo contro uno, praticamente è uno su uno, è un quadrato. Ah, sì, sì, quello... E non è normale. E non è normale per niente, perché allora, il cinema, cioè gli standard di Hollywood sono più o meno 1,90 su 1, quindi 2 a 1, oppure 2,35 a 1, se volete il wide più pronunciato per dare una sensazione di panorama. Per esempio, credo che 2,35 su 1 siano i film western vecchi. E mentre... Sì, c'è fatto Hateful Eight, Tarantino, mi sa. Esattamente. Mentre 1,90 è più o meno il formato, 1,91 è più o meno il formato standard di Hollywood. E il formato televisivo è 4 terzi, che è quasi un quadrato, almeno il formato televisivo vecchio, diciamo, originale. Questo addirittura è 1,19, quindi 1,2 a 1, quindi è fondamentalmente un quadrato. Ed è un po' diverso dai formati a cui siamo abituati, ma è molto bello per due motivi. Prima di tutto perché costringe il regista a fare una scelta, cioè inquadrare soprattutto primi piani. È come se fosse tutto un ritratto, non so se avete notato. Sì, un sacco di primi piani. In cui il soggetto è centrale o comunque è un'inquadratura simmetrica e non ci sono molti paesaggi, ma sono quasi tutti primi piani dei protagonisti. Per esempio le scene in cui, non so, Robert Pattinson lavora, si vede solo la faccia di Robert Pattinson e lui che muove le mani. In realtà lui sta lavorando, ma tu non vedi che cazzo sta facendo. È un primo piano di Pattinson. E l'altra cosa è che il mondo a cui siamo abituati adesso è molto simile a questo, perché se prendete per esempio una roba di Instagram, il formato è circa questo. Oddio! È un film fatto con Instagram, quindi. con i filtri di Instagram. Questa era la svolta sapio che stavamo aspettando. E no, il regista ha voluto farlo, ha scelto di farlo per questo motivo, perché leggevo un'intervista, a lui piacciono molto i ritratti e gli piaceva molto l'idea di fare di vendere un formato di questo tipo, che è particolare ma allo stesso tempo è familiare, quindi non è solo un formato quadrato, non è solo vintage, ma è anche moderno, perché di fatto è più rappresentativo di come vediamo noi adesso in uno schermo. Poi hai detto sta cosa dei ritratti, mo? Sì. Effettivamente sembra più simile a Instagram che ha proprio dei ritratti che a come giravano i primi piani quando i film erano effettivamente per forza in bianco e nero. Cioè, mo mi hai fatto venire in mente, sì, quella scena. Anche perché quando erano in bianco e nero non erano comunque così i tagli. Cioè, il rapporto di dimensioni era diverso comunque. Però dico, anche quelli un po' squadrati che magari cercavano di fare dei primi piani, le facce erano tutte... Cioè, presente la scena quando Gandalf entra in camera di Frodo alla fine del Ritorno del Re, che ci sta, sì, che è tutto sparato, apri tutto, piascica, apri tutto. Sì. Quello dipende molto anche dal tipo di lente che ha usato, ma adesso ci arrivo. Cioè, questo è un discorso lunghissimo in realtà per quello. No, però per dire, cioè, non è solamente, come dicevi tu, non è solamente che questo voleva farsi figo, voleva far retro, cioè... Sì, lui voleva comunicare un qualcosa. Cioè lui ha scelto di fare così perché voleva rappresentarlo in questo modo. Tra l'altro il direttore della fotografia è lo stesso di The Witch, è per quello che avevo chiesto se assomiglia un po' a The Witch. The Witch è abbastanza diverso, però comunque mi ricordo che la fotografia era molto figa, c'erano molte fonti naturali, luci in taglio, cioè non lo so, erano sì, questo è molto, molto tagli, molti sono tutti tagli di luce, sono quasi tutti riflessi di luce. Anche se vedete alcune, cioè se fate caso alcune illuminazioni tipo dei protagonisti, a volte di notte sono semplicemente il riflesso della luce sul mare, oppure il fatto che comunque la luce del faro è molto bella, sono quasi tutti appunto tagli di luce. La luce cambia molto di giorno, dal giorno alla notte, e questo è dovuto anche al tipo di pellicola che ha usato. Comunque, lui ha girato tutto con una camera che gli ha dato Panavision, che è quella che ha pagato per questo film. Ah! Ed è una camera dell'86, che si chiama Panaflex Millennium, che è fatta proprio da Panavision, e ha girato tutto, come diceva Andrea, in 35 mm, in pellicola Kodak 35 mm, nella stessa pellicola che era stata usata in altri film come Casino Royale o comunque... Ah. E questa pellicola è vecchiotta, cioè è stata fatta nel 60, ed è una pellicola in bianco e nero. Questo perché lui voleva registrare in bianco e nero, ma quindi la grana che vedete nel film, perché c'è una grana... Non è finta. Non è finta, è la grana della pellicola vera e propria. Mamma mia. Ok, qui si è attivata un po' tanto, cioè poteva farlo anche... Sì e no, e adesso arriviamo anche al no. E le lenti che ha usato sono lenti che in realtà non sono neanche troppo costose, si chiamano Bausch Lomb, sono delle lenti... Credo che l'azienda sia nata all'inizio del Novecento. Comunque sono delle lenti abbastanza vecchie, sono delle lenti degli anni 30, e che quindi non c'entrano un cazzo con la macchina che ha usato. E lui ha chiesto a Panavision, cioè lui in realtà voleva usare quelle lenti lì perché sono soprattutto lenti da ritratto. Ed è per quello che dicevo che i ritratti sono anche, non solo, cioè non è solo dovuto al tipo di formato, ma anche al tipo di lente che ha usato. Perché sono tutti, sono quasi tutte lenti da ritratto che ha utilizzato. Tra l'altro... queste lenti qua lui le voleva usare e Panavision gli ha pagato, cioè ha adattato la loro camera a queste lenti, visto che se no non sarebbero potute rientrare. E quindi, cioè, comunque credevano parecchio nel suo progetto, tant'è che, adesso magari apro una parentesi che non frega un cazzo a nessuno, il tipo di pellicola che ha usato è una pellicola in bianco e nero, appunto, che ho detto è abbastanza vecchia, e non so se avete idea di come, cioè, di come funzionava una pellicola in bianco e nero vecchia, perché il bianco e nero che c'era prima non è il bianco e nero che c'è adesso, ed è anche per questo che il tipo di effetto è diverso da un effetto digitale, è proprio un... cioè questo film è unico. La pellicola che ha usato è una pellicola ortocromatica, quindi è una pellicola originale, cioè sensibile, è originale nel senso dell'epoca, è sensibile ai colori blu, e non vede i colori rossi, per quello che si sviluppavano le pellicole con la luce rossa. Oh mio Dio! Ed è per questo che nei film vecchi il cielo era super bianco, perché appunto la pellicola non vede, cioè il colore blu è bianco, mentre il colore rosso è nero. Nero. Oh Cristo! E questo però è allo stesso tempo, cioè era l'effetto che voleva dare lui, però allo stesso tempo lui non voleva girare come i vecchi film. Nei vecchi film, e parlo di vecchi film nel senso anche il film muti, visto che la pellicola è fatta così, poi in realtà io parlo di foto, non so un granché di film, però il concetto è lo stesso. E le facce delle persone sono bianche perché la tonalità della pelle è più rossa. E quindi cosa faceva una volta... Scusami, ho appena capito un effetto speciale di una vecchietta che diventava una strega in un film vecchio. Ok, niente, vai, okay. Scusa. Cosa succedeva? Che loro li truccavano pesantemente per apparire in pellicola con un incarnato decente, perché sennò anche, cioè nonostante sia in bianco e nero, comunque veniva completamente nera la faccia di una persona. Cioè, non completamente nera, ma tendente all'oscuro, quindi tendevano a truccarli parecchio. Ma lui non voleva fare questa cosa qua, perché facendo questa cosa qua non avrebbe potuto fare dei primi piani come ha fatto in questo film. Cioè, la pelle dei due attori sarebbe stata un po' una merda. Lui voleva che le texture rimanessero texture, che i dettagli rimanessero dettagli. E quindi una volta per fare questo si usavano dei filtri blu, e lui, da quello che ho capito, ha richiesto a Panavision... No, lui in realtà voleva usare uno di quei filtri lì, però Panavision gli ha pagato un filtro fatto apposta ad hoc, e quindi lui ha scelto lo spettro di colori che voleva, per quello è unico, perché il filtro che ha applicato lui sulle sue lenti è stato fatto apposta per avere la visione che lui voleva di questo film. Porca puttana. E certo non avrebbe potuto fare in digitale, però vuoi mettere... No, ok, no, questo è il livello di anali proprio di, di precisione, manco Nolan, porca troia. Vuoi mettere quanto è figo fare una cosa del genere. E tant'è che lui poi si è chiesto anche perché cazzo avrebbero usato quel filtro, visto che cioè, una volta finito il film era da buttare. Comunque a quanto pare Panavision gli ha pagato tutto, ci credeva parecchio. E, beh, ma c'è interesse secondo me a farsi la figa, perché così più gente gli compra robe, gli affitta le macchine, le lenti, le cose. E tutto questo insomma era per dire che sì, cioè, nel senso, è vero che Nostalgia era in bianco e nero ed era molto bello da un punto di vista di fotografia e la composizione era fatta molto bene, però questo film è un po' diverso perché perché è tutto in bianco e nero. No, perché appunto c'è un sacco di ricerca. Lui ha curato la fotografia per farla come voleva lui, e lo stesso anche le inquadrature, cioè il fatto che la camera sia quasi sempre fissa e faccia movimenti laterali ma non faccia cose strane, e comunque sempre, quasi sempre un primo piano ed è decentrato verso l'alto, quindi è quadrato, ma quasi sempre la parte di sotto dell'inquadratura è l'oggetto di cosa sta succedendo, o comunque è un pezzo di tavolo o quel cazzo che è, e non so se avete presente, ma i soggetti sono sempre nella parte superiore, e tutto il film è fatto così, cioè lui lo voleva fare così e secondo me è riuscito molto bene, e è molto figo. Sì, è molto incantante, ti incanta, cioè ti fa star lì. Adesso io non so com'è il 1917, però insomma, per me questo in questo momento è l'Oscar. Poi magari lo... Allora, ti dirò, questo film ha secondo me l'effetto di, appunto, come hai detto tu, che lui ci ha sprecato tantissime energie per farlo venire così e tantissima attenzione ai dettagli, alla fotografia, eccetera. E se guardi una foto, cioè adesso ho cercato su Google, se guardi una foto delle riprese da una macchina fotografica normale e guardi cos'è c'è sulla pellicola, è un'altra cosa. Sì, certo. Senza effetti speciali, senza CGI, cioè a volte magari vedi la foto di un film di azione, tutto schermo verde, tutta roba così, però più o meno. Qua è completamente diverso, proprio la fisionomia, i vestiti, l'atmosfera... La cosa che mi piace tantissimo è che se io scattassi quella foto lì con la mia macchina fotografica o con una qualsiasi macchina fotografica, non avrei quell'effetto lì, perché quello è l'effetto, è la post-produzione, che non è post-produzione in questo caso perché è proprio come l'ha girato, però è quello che il regista ha voluto, cioè la sua impronta, è unico. Io non avrei potuto fare una cosa del genere anche in post-produzione. E questo mi piace molto perché è venuto fuori un gran bel film. E invece 1917 ha dei bei trucchi per far sembrare tutto il film come un'unica scena, e ha dei momenti che sono da un punto di vista di fotografia bellissimi, ma non è come questo, cioè è molto più normale come storia, come riprese, cioè molto più standard, a parte questi trucchetti. È bellissimo, bellissima fotografia e bellissime soluzioni di continuità, di montaggio e di trucchetti, ma boh, cioè a me, ho visto 1917 e non mi ha lasciato nulla, questo mi ha lasciato qualcosa, non lo so, mi ha... Sì, poi capisco che sia solo una masturbazione di... però ecco, cioè, poi io non so neanche un addetto ai lavori, quindi mi immagino un addetto ai lavori cosa possa pensare di una cosa del genere. Magari pensa che lui se la sia tirata e basta. Però, boh, insomma... Cioè, è una grandissima sega, però... ti rimane impressa. Sì, cioè, non lo so, forse sono io l'ipsterino e basta, però questo qui, secondo me, è un grande pezzo di una grande un grande oggetto. Non so, poi come a livello di storia. Mi voglio riguardarlo. Sì, poi ripeto, cioè, se ti fa cagare bastano i primi 10 minuti e hai già visto, cioè quello, tutto quello che ho detto io lo vedi nei primi 10 minuti di film. Sì, sì, la storia è molto prevedibile, diciamo. Cioè già te la spoilerà Willem Dafoe dopo 5 minuti, quindi non è... Sì, poi magari ci sono un sacco di cose molto più sapio da dire sulla storia o molto meno sapio, però ecco, la cosa che a me come feticista di questo mi ha impressionato è tutta la cura nelle scene. Va bene. Domande? Yeah. Cose? Come hai potuto paragonarlo a Mandy? Beh, che sono molto, entrambi capolavori, Andrea. La fotografia di Mandy è stupenda. È molto thriller psicadelico, psicologico. Ti odio. Capisci un cazzo, Andrea. Capisci niente, Andrea. Comunque Mandy ha un pregio che questo non avrà mai, purtroppo. Nicolas Cage. Esatto, è Nicolas Cage. Andate a cagare. Nicolas Cage rende tutto migliore, Andrea. Inutile. Purtroppo, ecco, puoi fare tutti i trucchi che vuoi, usare tutti le lenti vintage che vuoi, ma Nicolas Cage rimarrà per sempre. Merda, quando esce il film dove lui fa se stesso, dobbiamo fare... Così, c'è un riassunto degli ultimi 20 film che ha fatto da quando ne abbiamo parlato l'ultima volta. Va bene, avevi una scommessa, qualcosa da dirci su questo film? No, allora, l'industria del cinema è, diciamo, in pausa, praticamente. Però... penserò a come, diciamo, convertire la scommessa, quella sugli incassi, per questa nuova... diciamo era di streaming di Disney Plus, eccetera, vedremo, perché ho sentito che molti film verranno messi direttamente su streaming. Beh, sì, come è stato anche per Guns Akimbo, che è stato subito sparato su Amazon. Però è uscito in cinema. È uscito al cinema, sì, però solo in alcuni stati. Vabbè, vedremo, però comunque per oggi niente. Va bene. Allora, io vi saluto, grazie di averci ascoltato e ci Adios. Vediamo sabato prossimo con una puntata sapio davvero, non per colpa mia. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Già solo per Willem Dafoe Oscar. Ho capito, là c'è Nicolas Cage, che cazzo dici? Cioè... appunto. Scusa. Ma che cazzo è? Dai, dillo che ti è piaciuto per Twilight. Roberto Pattinzone. Roberto. Dai, dillo. Roberto! Secondo me non è stato un cane, cioè nel senso... Non c'è niente, stai dicendo tutto tu. Eh no, tu lo giudichi a priori perché... Lo giudichi a priori perché hai fatto Twilight, scusa. Non l'ho mai visto Twilight. Vabbè. Io ho visto solo il suo costume da Batman e non vedo l'ora che sia il 2021.